America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I think it's going to be important for us to make sure that we recognize these kinds of attacks can happen anywhere in the world. And one of the things I'll be discussing with Secretary Kerry today is to make sure that we remain vigilant. Barack Obama ha preso ieri una pausa da questo suo viaggio intorno alla nazione, oggi a Knoxville in Tennessee, per parlare di education, per una riunione con i suoi esperti di sicurezza nazionale, con i suoi esperti di antiterrorismo e non soltanto per capire se ci sono dei rischi di ricadute da questi attentati terribili, orrendi di Parigi, anche in qualche città, in qualche località americana, ma soprattutto per capire quali sono le ricadute strategiche di questo attentato che ha molte componenti nuove dal punto di vista americano, o meglio potrebbe averle. Intanto è molto diverso se è stato davvero ispirato da Al Qaeda invece che dall'ISIS, è molto diverso se il cervello operativo era nello Yemen invece che in Francia, organizzato da, come abbiamo detto, lupi solitari. Sono analisi queste che sembrano fredde nel momento in cui siamo ancora nel dolore per questo orrendo crimine, ma sono importanti intanto per giocare d'anticipo su eventuali attacchi, ma soprattutto per capire quale sarà la strategia degli Stati Uniti e degli alleati per combattere questo pericolo del terrore insieme alla Francia, insieme all'Italia, insieme agli altri grandi paesi del mondo. Ecco, di questo ho parlato con un personaggio che è stato nella stanza dei bottoni dell'amministrazione Obama fino a un paio d'anni fa, Daniel Benjamin, che era il coordinatore per il controterrorismo al Dipartimento di Stato con Hillary Clinton fra il 2009 e il 2012. Dunque è un personaggio, Daniel Benjamin, che non solo conosce la materia tecnica, ma che è anche stato addentro la materia politica. Oggi insegna a Dartmouth College, il direttore del John Sloan Dickey Center for International Understanding, ha scritto due libri, il primo nel 2002, The Age of Sacred Terror, l'era del terrorismo sacro, e nel 2005 un libro che oggi potrebbe sembrare profetico, Il prossimo attacco, la globalizzazione della jihad. Ecco, io con me i microfoni di America 24, Daniel Benjamin. Hello Daniel. Good morning, Mario. Ecco, la prima domanda è sulla sorpresa. Are you surprised? What is your reaction? Qual è la sua reazione per quello che è successo a Parigi? Well, I was, of course, surprised. Beh, sì, sono stato colto di sorpresa, certamente. E sono anche scioccato per un crimine orrendo. Sono anche preoccupato perché la Francia aveva finora ottenuto dei successi molto importanti nella lotta al terrorismo. Aveva giocato d'anticipo su molte minacce di attentati. È una preoccupazione la mia, dovuta al fatto che la Francia già seguiva questi due presunti terroristi. Li conosceva eppure li ha persi di vista. Qualcosa non ha funzionato. Non può capitare, ovviamente. Non voglio puntare il dito contro nessuno, ma piuttosto capire cosa è successo. Dobbiamo capire se a Parigi ha agito una cellula totalmente autonoma di estremisti che hanno deciso di prendere l'iniziativa per conto loro o se si è trattato di un crimine organizzato con l'aiuto di forze esterne. E se poi davvero uno dei sospetti era andato nello Yemen, io aggiungo come e quando ci è andato. I suoi movimenti internazionali dovevano essere sotto controllo. Non sarei sorpreso se alla fine scoprissimo una situazione ibrida in cui questi individui hanno colpito grazie a un addestramento probabilmente acquisito in altri posti e che abbiano anche usufruito di alcuni aiuti esterni. C'è una quantità enorme di cose terribili da scoprire e a seconda degli scenari le conseguenze che ne dovremo trarre cambieranno enormemente. In che modo, Daniel, qual è l'elemento caratterizzante? How will it impact your conclusions? It's a very murky situation. There's a lot of talk that they have had some. Se avremo conferma che Al Qaeda nello Yemen è stato coinvolto in questa operazione, anche solo nell'addestramento, sarà uno sviluppo molto importante anche negli equilibri del conflitto con l'ISIS. Finora pensavamo che Al Qaeda potesse raggiungere solo le regioni del Maghreb. Non pensavamo potesse raggiungere ed allargare il suo raggio d'azione arrivando a penetrare un paese come la Francia. Quel tipo di modus operandi era riservato piuttosto all'ISIS. Il secondo punto è che l'ISIS e Al Qaeda sono sempre stati in concorrenza tra di loro. Con questo episodio, qualora venisse confermato il suo ruolo, significa che Al Qaeda sta cercando di alzare il tiro nei confronti dell'ISIS. I due gruppi hanno filosofie diverse. Il primo, l'ISIS, punta a una guerra etnica contro gli sciiti e alla conquista di territorio per la creazione di un califfato. Al-Qaeda invece ha sempre considerato quella strategia un errore. Se ci fosse di mezzo Al-Qaeda, anche le modalità dell'attacco prenderebbero un nuovo significato. Infatti Al-Qaeda finora ha fatto ricorso soprattutto a terroristi suicidi, che andavano in giro con le bombe. Non hanno mai utilizzato armi come i Kalashnikov per condurre o comunque per aiutare un attacco mirato, come è accaduto a Parigi. Per tutti questi motivi potremmo quindi entrare in un nuovo territorio, ma questo lo sapremo solo alla conclusione dell'inchiesta. In questo dramma però non perdiamo di vista un punto chiave. Forse siamo più vulnerabili a piccoli attacchi mirati, ma non ci sono più stati degli attentati in grande scala come quello dell'11 settembre. I servizi sono in grado di giocare d'anticipo sulle grandi operazioni. Possono tenere sotto controllo situazioni di quel genere. Ma in casi come l'attacco a Parigi, il contenimento è più difficile perché diventa più casuale, parte dall'interno. È la vera e propria globalizzazione della jihad. Attacchi del genere sono possibili, lasceranno un forte impatto sull'opinione pubblica. Ma l'attacco catastrofico con 1000 morti oggi per loro è molto più difficile da realizzare. Ecco, c'è stato ieri il risultato, lo avevo anticipato, di un sondaggio sull'opinione pubblica americana nei confronti dell'ISIS. Il 57% degli americani sarebbe favorevole a scendere in campo con dei soldati per combattere l'ISIS. Secondo te, Daniel, questo succederà nei prossimi 2 anni di amministrazione Obama? Non credo che succederà e anzi spero che non succeda. Quello non è il nostro territorio. Dovranno essere i paesi di quelle regioni a riportare la normalità a partire dall'Iraq, che dovrà riorganizzarsi. Ma penso anche all'Arabia Saudita, al Qatar e agli altri paesi del Golfo. Dovranno essere loro a portare avanti questa battaglia per debellare chi ha manipolato l'Islam. L'abilità di questi gruppi è stata quella di aver pescato tra i 1000 codicilli e le 1000 interpretazioni presenti in ogni religione alcuni dogmi costruiti su misura per loro. Ma sono solo una piccola minoranza su oltre 1 miliardo di musulmani. Per questo la battaglia sul terreno dovrà essere locale. Credo anche che mandare soldati stranieri sarebbe un errore strategico, perché avremmo contro la popolazione locale. Abbiamo imparato delle lezioni dalla guerra in Iraq. Si tratta dunque di guardare ad un contesto politico, di organizzare una lotta al terrorismo, di rafforzare l'alleanza costruita dall'amministrazione Obama, ma non di scendere in campo con dei soldati. Sarebbe come cedere a una provocazione e oltretutto non possiamo permettercelo economicamente. Last question, un'ultima domanda. Gli schieramenti strategici e politici degli Stati Uniti. Qualcuno dice che forse l'America potrebbe aprire un'ambasciata a Teheran e voltare le spalle all'Arabia Saudita, che gli sciiti sono meno crudeli dei sunniti. Cosa pensa? Sarebbe un altro errore. Non possiamo aprire all'Iran senza ottenere in cambio delle posizioni di responsabilità a livello internazionale, senza che Teheran rinunci chiaramente e con assoluta certezza alle sue ambizioni nucleari. Non dimentichiamoci che l'Iran è uno dei grandi sponsor del terrorismo, finanzia Hezbollah, è molto attivo nella guerra civile in Siria. Sarebbe anche grave voltare le spalle ai nostri alleati, all'Arabia Saudita, ma anche a Israele. E nel conflitto tra sciiti e sunniti non possiamo scegliere di metterci da una parte o dall'altra, con gli sciiti o con i sunniti. Dobbiamo essere equidistanti e sperare che si possa recuperare un equilibrio o una stabilità nella regione nell'interesse di tutti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, passiamo di nuovo un momento difficile. Durante la crisi dell'Ucraina, quando ci furono morti, combattimenti e battaglie, io proposi una canzone pacifista di Pete Seeger, anzi, la tradussi persino in italiano e la misi su YouTube. La potete anche trovare su YouTube, nella versione italiana, dove sono andati fiori Mario Platero, Pete Seeger, e dunque vi propongo oggi l'originale, in nome della speranza, in nome della pace e sempre contro la guerra. Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.